L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Oggi è venuto a trovarci un amico di vecchia data della trasmissione, Marino Piasentà, ideatore del sistema FE per la refrigerazione industriale, con cui vinse il premio Legambiente 2008 per la migliore innovazione tecnologica. Lo conoscemmo allora e diciamo pure almeno una volta all'anno dal 2008 in poi è tornato a trovarci per raccontarci gli sviluppi e le migliorie di quel sistema, ma anche per dirci un po' degli ultimi progetti che davvero quest'anno ci porteranno lontano. Innanzitutto, Marino, bentornato, buonasera. Grazie a tutti. Vogliamo rapidamente dire che cos'è questo sistema FE, cosa fa? Beh, l'evoluzione del sistema FE è stata un'avventura, perché quando incominci a fare della ricerca e andare oltre i limiti conosciuti, ti trovi in l'ambiente che non conosci, per cui si è sviluppato prima recuperando il calore di processo dai supermercati e via dicendo, e poi invece abbiamo sviluppato l'eliotermia, cioè il recupero del calore dai pannelli solari fotovoltaici, con grandissime soddisfazioni, perché siamo arrivati a livelli molto molto buoni, quasi a costo zero del riscaldamento, condizionamento, acqua calda sanitaria, molto molto vicini. Insomma. Dunque, io finora ti ho seguito in Italia e invece quest'anno tu mi dici stiamo per andare all'estero, cioè il sistema è al punto interessante che ci si sposta in Egitto adesso per un progetto di ricerca con il Politecnico di Torino, ed è proprio la questione è proprio quella della eliotermia, di cui tu un po' già ci hai detto. Che progetto è? Cosa vi proponete? Dunque, siamo arrivati al punto che abbiamo bisogno di fare un esperimento scientifico per realizzare un nuovo sistema frigorifero, perché il pannello solare ha dei comportamenti con il nostro gas frigorifero assolutamente che non ci aspettavamo quasi neanche noi. Allora, col Politecnico di Torino, professor Caffaro, Masoero, Porcelli, abbiamo parlato molto a lungo, siamo arrivati al punto che dobbiamo fare questo salto di qualità, andare a provare un nuovo sistema frigorifero. Dove andare? Benissimo, andiamo nel posto più infame. Visto che si parla di freddo, andiamo nel posto più caldo. Esatto. Abbiamo selezionato il deserto bianco, che è in Egitto, e l'oasi di Karga. Abbiamo riunito un gruppo di aziende italiane che sponsorizzano tutta l'operazione, e alla fine di questo esperimento noi regaliamo tutto quello che facciamo al governatorato che ci ospita. Anche loro hanno delle spese, non è che è un rapporto paritario. Noi cosa facciamo lì? Noi facciamo un campo fotovoltaico con 100 pannelli. Bisogna dire che il progetto dei tedeschi di fare la corrente elettrica nel deserto del Sahara per poi portarli in Europa ha fatto una specie di flop, perché hanno sottovalutato due componenti, il calore, e che manda in crisi i pannelli solari oltre una certa temperatura, e il fatto di dover trasportare la corrente elettrica. La nostra filosofia, molto più modestamente, noi piccolini, no? Quello quanti, che dimensioni aveva quel campo? Il vostro è da 100 e loro? Da 2 milioni. Da 2 milioni, ok. Quindi le proporzioni sono proprio diverse. Sì, sì, sì. Però la nostra filosofia è: facciamo un impianto a stazione piccolo, molto piccolo, che serve solo localmente. Noi non trasportiamo energia, noi andiamo a conquistare spazi al deserto. Perché questo piccolo impiantino viene messo nel deserto a ridosso dell'oasi. Noi siamo in pieno deserto, però diamo la corrente elettrica dietro le nostre spalle. La corrente elettrica prodotta andrà a una scuola che la userà. Quindi tutto in loco, non si va in Europa? No, tutto in loco, tutto in loco. Lì facciamo la nostra stazione di pannelli fotovoltaici con sotto 2 celle frigorifere. Una cella frigorifera contiene sostanzialmente la parte tecnologica che fa andare tutto l'insieme degli impianti. L'altra cella frigorifera è l'inizio della catena del freddo, perché sotto i pannelli solari noi faremo una coltivazione irrigata naturalmente dal sottosuolo, tenuta in ombra, e sarà una coltivazione molto preziosa, economicamente molto valida, lo zafferano. In questo modo noi rendiamo conveniente e creiamo anche le situazioni di benessere ambientale per l'uomo nel pieno del deserto, in un territorio inospitale. Una delle considerazioni che ci ha spinto un po' tutti, che ci ha entusiasmato, è questo pensiero: 4/5 dell'umanità abitano su 1/7 delle terre emerse. Noi ci viviamo uno sulle spalle dell'altro, siamo tutti stretti, ci manca il cibo, ci manca. Abbiamo quasi la sensazione di essere troppi sul pianeta. Quando poi c'è tanto deserto, insomma. Che c'è terre inospitali, non solo deserto, di tutti i tipi. Ora, delle piccole stazioni che vanno piano piano a colonizzare le terre inospitali in maniera economica e in maniera sostenibile e anche. sostenibile e naturale e senza come Essere dire, invasivi, senza, sì. sì, senza invadere, aprono tutta un'altra prospettiva anche di sviluppo economico, sia per quel paese, l'Egitto. Allora noi gli diamo la cella frigorifera, la coltivazione esce dal campo e va in cella frigorifera. Ora in Africa non manca il cibo, in Africa manca la catena del freddo, muoiono di fame perché non conservano. Ma quando noi gli diamo il segno dell'inizio, è come un seme, no? Saranno quasi costretti a seguire quella logica, gli verrà spontaneo. E via così. Io spero che questo esperimento sia proprio un segno di una. Quindi dell'amicizia anche l'idea tra il è nostro usare popolo. Il sole e il suo calore esatto. Per poi raffreddare, questo è veramente esatto. L'incredibile di questa vicenda. Noi no? Usiamo il sole per raffreddare e usiamo il sole per raffreddare i pannelli. I pannelli qui produrrebbero 24.000 kW all'anno, là ne produrranno 70.000. Il sistema frigorifero nello stesso posto dovrebbe consumare 100.000 kWh all'anno, là col sole che ci aiuta a fare il freddo ne dovremmo consumare 20.000. Il risultato economico è avere un surplus di corrente elettrica che diamo appunto alla scuola, avere sotto la coltivazione, e questo ci ha un po' entusiasmati tutti. Partecipa la V-Energy che ci dà i pannelli, ognuno ha dato qualcosa, non è che diamo dei soldi, Ogni Però azienda. Anche per loro ovviamente può essere un esperimento e una ricerca interessante, perché sì, se sì, poi dopo sì, ha sì. I risultati che voi vi aspettate, insomma, poi c'è uno sviluppo anche economico per le aziende possibile. Esatto. Allora, i risultati li abbiamo già ottenuti, cioè noi sappiamo già cosa andiamo a fare e cosa possiamo ottenere. Però lo volete vedere sul campo? In Italia li abbiamo già fatti, per cui sappiamo già più o meno dove andiamo a parare. La grossa incognita è andare dove tu hai 3.000 di insolazione, dove tu hai un'insolazione altissima, dove non piove mai e dove le situazioni, cioè proprio il pannello è incandescente, cioè diventa caldissimo, e allora lì ci giocheremo una bella partita. Senti Marino, sennò poi dopo il tempo ci scade, ma perché con tutto questo sole nel deserto, come nel Sahara, ma non solo nel Sahara, insomma, lì non si usano i pannelli così tanto? Qual è il problema? Il problema è proprio che il pannello, quando si surriscalda, non produce più la corrente elettrica, ma è una cosa. Il pannello Quindi, solare è molto paradossalmente elegante. Anche a Lampedusa, per dire, è difficile, può essere difficile. Ecco, sì, nel sud Italia abbiamo già dei momenti in cui la produzione cala senza apparente motivo, tant'è che la maggior produzione ce l'abbiamo a maggio, non a luglio, per dare un'idea. Però la cosa più quindi bella. Bisogna raffreddarli. Quindi bisogna raffreddarli. Però la cosa più bella è che il sistema di produrre la corrente elettrica da fotovoltaico è un metodo sofisticato ed elegante, è intellettualmente elegante, perché è l'energia cinetica che della luce, qualcosa che noi vediamo come fermo, che produce poi il movimento della corrente elettrica nel fotovoltaico col movimento degli elettroni, per cui è proprio una, come posso dire, per uno che si appassiona diventa una forma di eleganza mentale, ecco. Poi facciamo anche gli accumuli, facciamo funzionare, noi siamo staccati dalla corrente elettrica delle reti, facciamo degli accumuli, abbiamo un sistema di accumulo per far funzionare il frigorifero anche di notte, anche senza l'insolazione, e questo dovrebbe portare sempre nell'esperimento anche questo aspetto di rendere continuativa la fruizione di corrente elettrica senza sbalzi, senza nessun problema. Certo, e la questione diciamo della instabilità politica egiziana vi sta mettendo in qualche modo in difficoltà? Allora, intanto perché devo dire nota. Una cosa, sì, il popolo italiano e il popolo egiziano, al di là della politica o della religione, sono due popoli fondamentalmente amici, perché si riconoscono uno nell'altro l'essere i due imperi che sono fondanti dell'umanità. In Egitto ci sono tanti laici, ci sono i copti, ci sono mille sfaccettature. Ora, questa crisi c'è, però penso che ne usciranno bene, ho notizie che ne stanno uscendo bene. hanno ancora tre situazioni di criticità, ma dove andiamo noi nel governatorato, che potrà essere o Rezzi o Carga, poi su Carga quindi c'è lontano una cosa da quelli bella. Cioè il Cairo e tutte queste aree di conflitto. Siamo tranquillissimi. Poi abbiamo appunto chiesto la sicurezza e andiamo con la nostra ambasciata, con tutti i crismi, con tutte le... Quanto ci mettete? Cioè devo darti appuntamento tra un anno per vedere qualche risultato o magari no, ci sentiamo prima? Penso che andremo a lavorare a settembre-ottobre, che adesso è un po' caldo, e penso che già a novembre poi saremo collegati col Politecnico di Torino in wireless, che i risultati li vediamo qua in Italia direttamente, man mano che... Quindi insomma via via che si accumulano riusciamo a fare degli aggiornamenti. Negli ultimi minuti, ne abbiamo circa 3-4 minuti, in Italia che cosa è in ballo? Perché insomma adesso tutto questo progetto sull'estero, molto bello, ma se lo godono gli egiziani. Sì. Ma se lo godono anche gli italiani. In Italia siamo arrivati appunto a sviluppare la tecnologia e abbiamo... Io ho puntato quest'anno a ridurre i costi al minimo e organizzare benissimo la scelta decisiva. Sì, sì, anche perché l'edilizia è in crisi e invece ci serve una svolta potente di ottimismo, di forza. Allora abbiamo fatto il primo condominio positive a chilometro zero, totalmente CO2 neutral, alle porte di Milano. Ma perché positive si chiama? Perché qui siamo sempre negativo, no? È tutto... Perché produciamo più corrente elettrica di quanta ne consumiamo per fare il riscaldamento. Quindi non è passivo, bensì è diventato positivo. È positivo, si produciamo un pochettino più di corrente elettrica di quanto ne consumiamo. È assolutamente privo di qualsiasi combustione chimica, non c'è neanche una fiammella accesa. E siamo riusciti, lavorando bene con l'impresa Marzullo che l'ha costruito, a realizzare un progetto che è a basso costo, classe A, classe A+, alle porte di Milano. Sai cosa costano qui gli appartamenti, tutti lo sanno, a 2.100 euro al metro quadro. Questo è stato il frutto di un'organizzazione del lavoro e del fatto che abbiamo acquistato tutti i prodotti italiani costruiti più vicino possibile a noi. Infatti sono i soliti che io dico sempre che siamo i migliori, perché c'è niente da fare. L'Italia ha ancora tanta forza. Sì, no, sono sicura, lo so, mi ricordo che tu di questo sei assolutamente convinto, al punto che quest'anno hai creato, visto anche tra i tuoi appunti dell'anno, un gruppo proprio di giovani italiani che, sì, che nome gli hai dato? Si chiama Laboratorio di Innovazione Energetica, i ragazzi di Via Panisperna, perché voglio ricordare che sono stati fisici nucleari italiani. A fare l'atomo. E ci serve dargli onore, e lì accoglieremo anche tutte le idee nuove. Chiunque sa fare troverà la sua officina, gli faremo un prototipo di quello che ha in testa e svilupperemo le idee di chiunque sappia fare qualcosa. Di chiunque sappia fare qualcosa, quindi ti può scrivere? No, perché anche scrivere no, serve. Per contattarti, per sai, dove ti scrive, dove ti trova, perché insomma non è che sul sito nostro www.sistemafe.it ci sono tutti i numeri di telefono, tutti gli indirizzi, c'è tutto. F-E-E, due, sì. Importante, no, perché io credo che appunto sia tanti giovani magari possono voler così contattare, far sentire la propria voce, comunicarti le idee, i loro riscontri anche su quello che hai raccontato oggi, insomma. Noi metteremo a disposizione l'officina, e però devono mettersi a lavorare, non è che... No, lo so che con te il pane non è regalato, per cui devono essere pronti a arrampicarsi sui tetti, non a fare lavoro d'ufficio. Esatto, ecco, sì, esattamente. Senti Marino, in bocca al lupo, allora cos'altro possiamo dirti? Grazie Laura, alla prossima, spero. Alla prossima, questo sistema che io scoprì per caso su internet anni fa, mi fa molto piacere sapere che cresce e che dà i suoi frutti e che questi frutti pian pianino raggiungono anche altri paesi nel mondo. Sì, infatti, poi faremo delle cose buone, io spero per tutti proprio, che sia un... come posso dire, vorrei comunicare questa idea di guardare oltre noi stessi. Di guardare molto avanti e di non aver paura. Il mondo lo cambia un italiano, Il mondo lo cambia sempre un italiano. Ah, lo cambia sempre un italiano. Grazie a Marino Piasentà. Porta i saluti anche al Politecnico di Torino, che comunque si spende molto anche nel sostenere la tua ricerca, insomma. Sono eccezionali. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Per scriverci, l'altro pianeta @radio24.it.